quelle esperienze sono molto significative anche per l'oggi. Il libro Ma noi non potevamo aspettare più, memorie e storia della lotta per la casa a Roma, una presentazione a Roma al Centro Sociale Macchia Rossa sabato 15 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al curatore. Grazie Bruno Fusciardi. Alla prossima! Spero di vederci intanto a Via Pieve Fosciana 88 a Magliana. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Riccardo Cremona, co-regista del documentario Come se non ci fosse un domani, al cinema da giovedì 6 marzo 2025. Ben trovato. Ciao, grazie. Cosa racconta il vostro lavoro? Il film parla di ultima generazione, attivisti e attiviste che si battono per portare all'attenzione pubblica la questione fondamentale della crisi climatica. Lo fanno con tecniche di disobbedienza civile non violenta e sono 3-4 anni che hanno iniziato a fare queste azioni. Come nasce il progetto? Io e Matteo Keffer, l'altro regista, lavoravamo ad un programma televisivo che fu uno dei primi a ospitare una persona di ultima generazione in uno dei periodi in cui cominciarono a fare azioni molto intense sul raccordo anulare con blocchi stradali, eccetera. E da subito abbiamo capito l'importanza di questa cosa. Stavamo assistendo ad uno scontro generazionale senza precedenti, ed è tra l'altro al risveglio di un radicalismo veramente necessario dopo anni e anni di torpore intorno a un tema che è veramente cruciale, ma soprattutto stavamo assistendo a una generazione che per la prima volta nella storia era disperata perché non vedeva davanti a sé un futuro, che è una cosa che non è mai successa nella storia dell'umanità fino ad oggi, e quindi ci è sembrato importante documentare chi erano davvero queste persone, cosa stava succedendo e perché facevano quello che facevano. Come avete deciso di impostare il lavoro? Dal basso, nel senso, noi abbiamo cominciato io e Matteo con una macchina, cercando di stargli appresso, cercando di conoscere queste persone, di conquistare la loro fiducia. Loro avevano un rapporto molto conflittuale con i media perché il racconto che me ne veniva fatto era sempre molto superficiale o comunque totale alla polarizzazione, cioè sono dei terroristi, sono dei fannulloni, oppure un po' paternalista, sono ragazzi, no? E noi invece volevamo approfondire, e il problema è che loro avevano un po' il nervo scoperto, quindi è stato un po' complesso conquistare la loro fiducia, ma insomma questo fa parte del nostro lavoro. Ci siamo messi lì, siamo stati con loro per strada, notte, giorno, insomma, fino a che non hanno capito che il nostro tipo di approccio è diverso da quello della stampa mainstream. E quindi abbiamo cercato di seguire 2 anni di vita di queste persone, fra azioni, vita privata, conflitti, dubbi, paure, tutto ciò che fa parte della vita di una persona che sceglie di fare una scelta così radicale e così inedita nell'Italia di oggi. Nel documentario è rappresentato anche un momento controverso, quello delle azioni che bloccano il traffico o rivolte ai monumenti storici e i momenti conflittuali con la cittadinanza. La conflittualità è una delle chiavi di accesso alla coscienza collettiva che queste persone cercano di utilizzare. Sicuramente sono molto controversi, sono chiaramente atti spettacolari, soprattutto nel caso degli imbrattamenti delle opere d'arte, che insomma, ricordiamolo, sono imbrattamenti puramente simbolici, non hanno mai effetti permanenti sulle opere e comunque già sono abbastanza devastate da inquinamento e altre cose, quindi insomma non è che si noti più di tanto. Comunque, a parte questo, chiaramente loro adottano delle tecniche spettacolari che servono per far parlare del tema. In un mondo in cui la soglia dell'attenzione è di 3 secondi, cercano di bucare come possono l'attenzione delle persone per portarle a farsi 2 domande in più su una cosa che è di una gravità epocale e che sembra che quasi tutti, o comunque la stragrande maggioranza delle persone, ignorino bellamente. E per quanto riguarda il traffico, io poi non sono l'avvocato di ultima generazione, so solo che è un sistema che loro utilizzano per portare il messaggio dove il messaggio non arriva, per portare in maniera distruttiva il messaggio per la strada. È chiaramente complicato difendere al 100% questa cosa. Prima volevo raccontare le motivazioni di queste persone e come hanno deciso di agire e di mettere in atto la loro protesta. C'è un altro elemento: il documentario mostra anche la difficoltà che incontrano ad allargare il bacino. Sì, questo è il problema principale. È molto difficile, ma come è stato a partire dal 2019 con le prime campagne di Extinction Rebellion, che in Inghilterra soprattutto all'inizio sembrava avessero avuto un momento di esplosione, poi purtroppo ci sono state una serie di questioni contingenti, c'è stato il Covid con tutto ciò che ne è conseguito, adesso ci sono 3 anni di guerra e purtroppo le priorità del mondo in questo frangente non sono andate a favore del montare dell'onda ambientalista che invece sembrava stesse montando. Allargare la base è molto difficile perché il problema della crisi climatica è che è un problema che è difficile da accettare per tutti, ma per noi stessi, io sono 2 anni e mezzo che studio quotidianamente questo tema e mi rendo conto di quanto sia difficile rimanere lucidi, ricordarsi che è una cosa vera e che non è un brutto sogno, che il nostro ecosistema sta effettivamente collassando e che è la cosa più importante di cui dovremmo occuparci. E non è facile, è difficile coinvolgere le persone in un percorso sano, anche che semplicemente sia conciliabile con la vita di tutti i giorni in cui dobbiamo tutti lavorare, occuparci della famiglia, delle nostre cose. E questo è il grande dilemma della crisi climatica. È uno sforzo collettivo, ma le persone fanno fatica ad intestarsi, a sentirselo proprio. Dall'altra parte c'è la difficoltà di comunicazione con la classe politica e anzi delle misure repressive spropositate. La politica ha accolto le proteste di ultima generazione un po' come ci si aspettava, la sinistra cosiddetta, insomma, con trasporto in alcuni casi, ma comunque con tepore e con un certo paternalismo, chiaramente riconoscendo il valore delle battaglie, ma sempre poi andando a fare le pulci, condannando i metodi e incastrando il discorso sui metodi quando il discorso non è sui metodi. I metodi sono un allarme rosso per un problema molto più grande. Ecco, questa cosa è difficile farla capire alla politica, con piccole eccezioni, ma comunque il trend è un po' quello. La destra chiaramente ci si è buttata a pesce, insomma, come ci si poteva aspettare, strumentalizzando, chiamandoli terroristi, non capendo nulla di quello che dicevano e soprattutto nel caso di questo governo emanando ben 2 leggi ad hoc per proteste di questo genere, una riguardante gli imbrattamenti che ricordiamoci sono puniti adesso con multe fino a 20.000 euro se non 60.000 semplicemente per appiccicare un pezzo di scotch sopra il vetro protettivo di un quadro. Ecco, questa è una roba sproporzionata che insomma la dice lunga su come il governo intende affrontare le questioni sia ambientali ma anche la questione del dissenso. In più l'ultimo decreto sicurezza criminalizza ulteriormente le proteste in tanti modi, fra cui il blocco stradale che viene ripenalizzato e con un solito aumento delle pene che sappiamo che non serve a niente, serve solamente a fare il solito provvedimento di bandiera a cui questo governo ci ha abituato. Per sapere dove andare a vederlo ci sono dei riferimenti internet? Sul sito di Mescalito Film, che è il distributore. Il documentario Come se non ci fosse un domani al cinema da giovedì 6 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al coregista Riccardo Cremona. Alla prossima! Grazie a te. Con Paola Casella, una delle curatrici della 32esima edizione di Sguardi Altrove, Women's International Film Festival a Milano dal 12 marzo al 7 aprile 2025. Ben trovata. Ben trovati a voi, è un piacere essere con voi e parlare di questo festival che ho nel cuore perché ormai sono diversi anni che partecipo come selezionatrice e curatrice. Come si caratterizza questo festival?

con Gianluca Minucci, regista del film Europa Centrale, al cinema da giovedì 13 marzo 2025. Ben trovato. Grazie, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno. Che storia è questa? È un viaggio all'interno della follia del Novecento, mi verrebbe da dire. È un viaggio sia fisico, in quanto è tutto ambientato in un treno, sia metafisico, in quanto il treno stesso diventa l'Europa centrale e tutti gli accadimenti più tragici e cruenti che sono accaduti in quegli anni lì, il film ambientato nel 1940. Come era nato il progetto? Ero a Budapest e per puro caso vidi questo bellissimo museo dei treni, dove poi noi siamo finiti a girare, che è tra i più grandi d'Europa, che ha dei treni meravigliosi, anni 20 e 30. E a quel tempo stavo pensando di, io avevo già scritto altre sceneggiature che non avevano trovato, diciamo, il green light, e l'idea era di scrivere un film che avesse una logistica ridotta, quindi un dramma da camera, quindi ambientato in un'unica location. L'unione di queste due cose, più ovviamente le passioni mie per la storia del Novecento, hanno portato a questo. Come hai pensato la messa in scena? La messa in scena ha avuto un suo studio anche abbastanza preciso, ho fatto uno shooting board di 160 pagine e c'era sì l'idea di dare al film un respiro espressionista, quindi tirare con un elastico alcuni elementi che potessero essere dei primi piani, l'uso di certe lenti più grandangolari, stravolgere alcuni colori, però poi il più si è verificato quando eravamo lì. Perché questi treni avevano mille e mille limitazioni, non si potevano togliere i finestrini, non si potevano rimuovere le porte a scorrimento, erano treni molto stretti, quindi già stare si faceva fatica e quindi la macchina da presa si adattava a questi spazi angusti e direi quasi naturalmente è diventata una macchina da presa espressionista che ricorda un po' l'espressionismo tedesco, perché faccio un esempio, c'era il microfonista, un ragazzo ungherese alto 2 metri, che lui dentro allo scompartimento non ci stava, quindi doveva mettersi in posizioni, fare delle acrobazie per stare dentro, lui, il boom, gli attori, macchina da presa, era impraticabile, quindi la macchina da presa stava o molto dal basso o molto dall'alto, quindi è stato più vitale perché non c'è stato preconcetto. Rispetto, ecco, alla storia del Novecento, su quali elementi volevi puntare e mettere al centro? Mi interessa, anche da docente di scuola pubblica, molto l'idea di fede politica, quindi questa adesione cieca alle ideologie. Mi interessava molto che in Italia si è visto poco al cinema un'analisi dello stalinismo, quindi di quello che era quello che io voglio chiamare socialismo irreale, per coniare un termine di socialismo, fondato su paure, paranoie e dubbio. Sappiamo che lo stalinismo viveva questa componente continua emergenziale e mi interessava molto quell'aspetto di lucida, lucidissima e maledetta follia dello stalinismo, la paura, il dubbio, la psicosi, cioè, sono terreni molto fertili per una drammaturgia. Com'è stato il lavoro con il cast degli attori e delle attrici? Siamo diventati una famiglia, è stato molto unito, forte, proprio erotico nel senso greco, di amore, avendo un impianto fortemente teatrale. Io metterei tutti i nomi degli attori come autori della sceneggiatura, perché la sceneggiatura deve essere solo un pezzo di carta obsoleto, proprio in questa chiave espressionista, dove il suono, la musicalità delle battute diventa fondamentale, preponderante, ecco che loro sono i veri autori della sceneggiatura in realtà. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto intenso di prove, di letture a tavolino, era come stare a teatro, poi stavamo tutti insieme dentro tutti i giorni in questa bolla, che erano questi vagoni che anche creavano una certa condizione fisica di fatica, perché sono vagoni anni 20 con questa moquette anni 20 molto polverosi, questi proiettori sparati dentro il vagone e quindi il caldo terribile, e si sudava, ma era sudore d'amore, ecco. Che uscita sarà? Adesso noi facciamo delle prime anteprime a Roma, Bologna, Milano, Trieste, poi ne seguiranno altre. Ci piace di più l'idea di fare delle uscite mirate. Noi siamo un piccolo film, siamo un film indipendente e siamo un'opera prima e solitamente le opere prime, non voglio aprire una voragine sulle distribuzioni, sugli esercenti, però vengono messe in orari improbabili alle 4:30, vengono tenute una settimana nelle sale e vengono lasciate morire là. Le vedono 5 persone. Invece, facendo un approccio dove dici noi facciamo un tour e questo tour andiamo a riempire le sale, secondo me dà più luce al film stesso. Credo che sia un'ottima soluzione per questa crisi delle sale. Quindi non più mettiamo il film 2 settimane alle 4:30 o alle 6 massime, poi chi c'è c'è, chi non c'è arrivederci. No, faremo una cosa più lunga con date mirate, e come se fosse un tour di un gruppo rock. Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? C'è l'Instagram della Danubio Film, c'è la pagina dei coproduttori, Wellside 74, ci saranno comunque comunicati stampa che lasceremo insieme a Rai Cinema, che insomma è in collaborazione nella produzione, quindi l'aggiornamento sarà costante e continuo. Il film Europa Centrale al cinema da giovedì 13 marzo 2025, un saluto e un ringraziamento al regista Gianluca Minucci. Alla prossima! Grazie a voi. Con Luca Franco, regista del film Maratona di New York, al cinema da giovedì 13 marzo 2025, ben trovato. Grazie, grazie a tutti, ciao. Ci presenti questo tuo lavoro? Maratona di New York è un film tratto da uno dei più importanti testi teatrali contemporanei italiani, omonimo appunto, che è stato scritto da Edoardo Erba, mi pare nel 92. E che è stato portato per la prima volta in scena da Zingaretti, esattamente in quegli anni lì. È nato come fenomeno di culto, perché all'inizio non veniva molto considerato, poi piano piano come passaparola è cresciuto enormemente, è diventato uno dei testi più importanti italiani al mondo, è stato rappresentato ovunque. Io l'ho visto a teatro per la prima volta tardissimo nel 2018 e appena l'ho visto ho detto voglio fare un film su questo testo perché è bellissimo. E da lì tanto lavoro, insomma, siamo arrivati a uscire adesso. Come è cominciato tutto e come si è sviluppato il lavoro? Il lavoro è incominciato banalmente da bussare alla porta di Edoardo Erba a chiedere i diritti. Edoardo è stato molto contento di collaborare con noi. Poi un periodo molto lungo, è stata la parte più difficile di sviluppo della sceneggiatura, perché il testo originale a teatro dura 3/4 d'ora, è un atto unico. Anche perché a teatro i due attori corrono fermi sul posto, ma corrono per 3/4 d'ora, quindi insomma se durasse di più sarebbe molto impegnativo. E quindi noi abbiamo dovuto farlo durare da 45 minuti a 90, e quindi abbiamo dovuto aprire il testo, espanderlo nel rispetto assoluto. Noi non abbiamo cambiato una virgola del testo, non abbiamo aggiunto nulla, se non agganciarci a cose che vengono dette dai protagonisti e allargarle, espanderle tramite flashback, flash forward, eccetera. Quindi questa è stata la parte, ma proprio nettamente più difficile. Poi metterla in scena è stato faticoso, perché giravamo soltanto all'alba e tramonto, quindi era un'alzataccia alle 5 del mattino, anche prima. Primo pomeriggio ci si riposava e poi alla sera di nuovo. Tutto questo avanti e indietro per gli altipiani liguri. Cosa avevi apprezzato del testo? La cosa più banale è che non avevo mai visto a teatro due persone che correvano, seppur vabbè, da fermi, e mentre correvano parlavano dei massimi sistemi. Comunque un lavoro così fisico, così fra virgolette realistico a teatro non avevo mai visto. Non immaginavo che due a teatro potessero correre. Il testo è veramente bello. E poi uno non si aspetta quello che poi succederà, perché poi la storia presenta delle sorprese non banali, ecco. E poi è un testo che parte in maniera molto leggera e ironica e diventa un testo molto drammatico sul finale. E quindi questo arco che compiono i personaggi, la storia è molto bella. Poi i due personaggi sono molto diversi da me. Io, una difficoltà che ho avuto è stata anche identificarmi in loro, perché sono veramente diversissime, che io non c'entro personalmente con nessuno dei due. E quindi ho cercato di mettere me stesso registicamente come il mio punto di vista su di loro, ecco, non tanto loro stessi. Però l'occhio della regia, della fotografia, eccetera, quello sono io. E poi tutto il resto, le musiche, gli ambienti, ho cercato di prendere ambienti e musica che mi riflettessero, insomma, me stesso e la mia sensibilità. Com'è stato il lavoro con gli attori? Un incubo. È stato faticosissimo, perché loro poveracci dovevano correre veramente, quindi non potevamo fare troppi ciak. Doveva essere buono, non dico la prima, però insomma quasi, perché comunque sia loro si sono preparati per un paio di mesi prima di cominciare le riprese, e poi abbiamo dovuto preparare il piano di lavorazione per permettere a loro di lavorare arrivando a fine giornata stando in piedi, perché poi sai, corri magari 100 metri, poi ti fermi perché non va bene la ripresa, poi corri un minuto, poi stai fermo 10 minuti, poi corri altri 30 secondi. Per loro era, fisicamente era terribile. Poi avevamo due massaggiatori in scena che appena potevano li aiutavano, e oltre a questo appunto c'era la difficoltà che dovevano correre e recitare. Insomma, è stata una delle parti più difficili. Però sono stati bravi loro, ecco, sono stati veramente bravi. Rispetto al lavoro teatrale, su quali elementi ti sei voluto concentrare? Sulla parte più visiva, nel senso che a teatro è un botta risposta molto incalzante, mentre noi ci siamo presi delle pause, a volte anche abbastanza lunghe relativamente, insomma, a quello che si può fare, per fare in modo che respirasse il testo, che si sentissero i passi, si vedesse la nebbia, i paesaggi, facendo anche riprese da lontano. Tutte cose che a teatro non si possono fare, ovviamente, ecco. E devo dire che queste parti qua sono le mie preferite del film. Le parti in silenzio mi piacciono molto. Che distribuzione avete pensato? Abbiamo un distributore ligure che ci sta proponendo in Italia. Adesso stiamo facendo le date liguri, giovedì a Genova, venerdì a Sesto Levante, poi sabato a Spezia, poi via via nel resto della Liguria, Varazze, Savona, eccetera. E poi subito dopo usciremo a Milano, a Torino, a Roma, a Aosta, eccetera. È abbastanza spalmata nei prossimi mesi la distribuzione. Di solito tendono a concentrarle, invece noi andremo avanti sino a probabilmente a giugno. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? La pagina Facebook della società, che è The Box Film, e poi Instagram, sempre di The Box Film. C'è anche il sito web della maratona, che è www.maratonadinewyorkilfilm.it. Il film Maratona di New York al cinema da giovedì 13 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Luca Franco. Alla prossima! Grazie a tutti, grazie. Con Emanuela Piovano di Kitchen Film, direttrice artistica della seconda edizione di C-Movie Film Festival a Rimini dal 13 al 15 marzo 2025, ben trovata. Buongiorno a voi, ben trovati, grazie di questa opportunità. Ci eravamo sentiti per la prima edizione, nuovamente spieghiamo cos'è. C-Movie sta per cinema, corpi, convivenze, e la sua anima è la presentazione del listino dei film della Kitchen Film dell'anno, che sono sempre 3 o 4, e che vogliamo celebrare quindi sotto forma anche di festival, quindi non soltanto facendo una conferenza stampa invitando gli autori, ma contornandoli un po' di amici, di persone che ci hanno man mano. Solo festival, insomma, in questa edizione ho pensato che si potesse citare il Salotto o l'Agorà. Poi oggi ovviamente è tutto molto fluido e anche molto virtuale, però se esiste ancora sempre la voglia di discutere intorno ai film, di parlarne, di affacciarsi insieme a questa finestra, eccoci, Movie è un po' questa idea. E poi naturalmente gioca anche con A, B, C, con le varie classificazioni dei film, quindi la vocazione della Kitchen, che è sempre stata quella della marginalità, ma non nel senso di emarginati, si spera, ma un'attenzione ai limiti, ai confini, agli sconfinamenti. Come saranno articolate queste 3 giornate? L'anno scorso avevamo iniziato con Dacia Maraini e quest'anno si inizia con Melania Mazzucco, che ha dedicato la sua ultima opera a un'attrice del cinema muto, Diana Carenne, che io personalmente non conoscevo, ma invece poi i miei amici conoscevano anche, perché noi sappiamo sempre la Francesca Bertini, l'Eleonora Duse. Questa Carenne, che era una polacca esule dalla, tra l'altro, rivoluzione russa, che si era rifugiata in Italia, ma poi che ha lavorato anche a Parigi, a Los Angeles, insomma un personaggio a cui appunto la Mazzucco dedica un libro. Brone e Einaudi. Quindi viene lei. Abbiamo anche la Kitchen Film insieme alla Cineteca di Milano, ha restaurato un piccolo film, insomma dei frammenti, diciamo un centone di un importantissimo film di Carmine Gallone, che era Redenzione o anche Maria di Magdala, che giaceva in nitrato nei vari archivi grazie soprattutto anche a Comencini che li aveva raccolti. Poi quest'anno c'è un po' il tema delle coppie e quindi come sparring partner ai nostri tre film abbiamo invitato Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta, che hanno scritto Quattro Mani, un bellissimo libro su Clint Eastwood e che comunque sono stabilmente collaborativi da vari lustri. E poi abbiamo un omaggio a Salvatore Piccicelli, dovuto perché ci ha lasciato a giugno, per la generazione dei boomers ai quali io appartengo, per esempio è stata una pietra miliare con Nanni Moretti e Piccicelli negli anni 80, erano stati veramente dei riferimenti. E quindi viene Carla Puzzo, che anche lei è una regista e che anche lei ha firmato per esempio il film che presenteremo, La vita segreta di Maria Capasso. E l'altra coppia è Gaudino Sandri, i Gaundri, anche loro marito e moglie, compagno e compagna, di cui presentiamo qua una Golino inedita che li attraversa per Un confine incerto e Per amor vostro. E i nostri tre film invece che vengono appunto presentati in anteprima nazionale sono The Brink of Dreams, che in realtà è stato già anche al Torino Film Festival dove ha vinto il premio della giuria, ma naturalmente adesso è un'anteprima per il mercato, che è un film di due, anche lì una coppia, marito e moglie egiziani, che hanno seguito per 4 anni una piccola troupe di adolescenti di uno sperduto paese dell'Egitto, e questa piccola troupe di ragazze fanno teatro femminista di strada, quindi molto molto divertente. Ha vinto tra l'altro l'Œil d'Or, il miglior documentario di Cannes nel 2024. Gli altri due film sono due recuperi, e quindi non in recentissimi, però che non sono mai usciti in Italia. Uno di una regista molto interessante francese, si chiama Marine Francen, che ha fatto questo film The Sower, Lo Semeur, Il Seminatore, dove un piccolo villaggio in epoca napoleonica rimangono solo donne e decidono che il primo uomo che fosse passato se lo sarebbero spartito, così per farsi mettere incinta. E quindi un ritratto molto delicato, molto raffinato di una comunità di donne dell'Ottocento. L'ultimo film invece, ma anche per seguire il filone appunto delle convivenze, ci racconta di una migrazione europea interna molto inedita, un macellaio lettone che vuole andare a lavorare a Bruxelles e in realtà viene immesso in dei circuiti malavitosi, insomma tutta un'avventura, alla fine tornerà in Lettonia. E questo è Oleg, che è anche un film che era stato nella selezione ufficiale di Cannes nel 2019. Poi quest'anno abbiamo due matinée, la prima il venerdì mattina con già sold out per le scolaresche, il bellissimo ultimo lavoro di Giovanna Gagliardo su Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, e invece il matinée del sabato mattina dedicato anche a tutti i giovani dai 5 agli 80 anni, una presentazione di materiali, di cartoni animati della Golden Age americana, di un nostro giovane amico che si chiama Lorenzo Pulito, sostenuto e dialogante con il grande Luca Raffaelli e Mariuccia Ciotta. Quindi si parlerà anche di donne e stereotipi nel cinema di animazione, ma anche trasgressive come Betty Boop, Minnie the Moocher, insomma c'è veramente una carrellata di personaggi straordinari in questi cartoni animati non mainstream della Golden Age americana. I riferimenti internet per il programma? Sempre il sito di C-Movie, che è dentro a CineKit, quindi CineKit con la K, CineKit come l'iniziale della Kitchen Film, ma anche come piattaforma di servizio al cinema, cinekit.it/c-movie. Il manifesto molto bello che ha firmato quest'anno uno spagnolo, Antonio Rodriguez. Seconda edizione del C-Movie Film Festival a Rimini dal 13 al 15 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuela Piovano di Kitchen Film, che ne è direttrice artistica. Alla prossima! Grazie, Radio Onda Rossa. Con Giulia Giorgi del Hip Hop Cinefest per presentare il primo evento del Waiting for Hip Hop Cinefest, con la proiezione del documentario Il Dito e la Luna di Agostino D'Antonio, sabato 15 marzo 2025 a Roma, al Santa Libirata. Bentrovata! Ciao, grazie mille come sempre per questo spazio, per raccontare il nostro festival e gli eventi insomma che lo circondano. Quest'anno abbiamo davvero raggiunto una grandissima quantità di titoli in concorso e abbiamo deciso di iniziare prima a raccontare il festival e i suoi film. Il festival sarà il 9 e il 10 maggio, sempre a Tor Pignattara alla Casa della Cultura. Sarà gratuito come sempre e grazie a Santa Liberata questo fine settimana faremo un primo evento con un titolo dello scorso anno che ci è piaciuto molto, a cui siamo molto affezionati, che si chiama Il Dito e la Runa, che è un documentario di un regista sardo che si chiama Agostino D'Antonio, che lo scorso anno anche ha partecipato fisicamente insomma al festival, e che racconta la storia di Bakis Bex, che è un rapper con una storia di oltre 20 anni che dopo aver cantato in pubblico una canzone che denunciava lo sfruttamento militare della Sardegna da parte dello Stato italiano e della NATO viene indagato e portato in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale. Chiaramente questo porta a dei danni oltre che alla vita personale, alla carriera dell'artista, e quindi questo documentario ci racconta tutto questo. Spieghiamo cos'è l'Hip Hop Cinefest. L'Hip Hop Cinefest è un festival che raccoglie titoli connessi al mondo hip hop da tutto il mondo. Abbiamo di media una trentina di paesi che partecipano, con documentari corti e lunghi, progetti di finzione corti e lunghi, progetti sperimentali. Da quest'anno anche abbiamo una sezione dedicata alle serie sperimentali, video sperimentali e video musicali. E tutto gratis per 3 settimane in streaming, quest'anno a partire dal 28 di aprile, e tutto si può vedere dal nostro sito hiphopcinefest.org, in una logica di condivisione del sapere e della conoscenza. Ci racconti anche come si svolgerà la serata di sabato? A Santa Liberata apriamo alle 8:30, piccola selezione musicale per iniziare puntuale alle 9 con la proiezione del Dito e la Luna, e alle 22:15 iniziamo fino a Luna con una selezione a cura di DJ Ernia, che è uno dei DJ pionieri della scena venezuelana che in questo momento è in Italia, e quindi da ritmi latini fino all'hip hop, insomma in una fusion musicale super interessante, avremo l'accompagnamento della serata e anche una special guest. Abbiamo DJ Nario, che invece è un DJ con base su Roma, e sul dance floor, che aiuteranno insomma ad animare le danze, la Wild Up Crew. I riferimenti web per saperne di più? Sulla pagina di Santa Liberata, sulla pagina di popcinefest.org, e siamo a disposizione per tutte le vostre domande. Il primo evento del Waiting for Hip Hop Cinefest, con la proiezione del documentario Il Dito e la Luna di Agostino D'Antonio a Roma al Santa Liberata sabato 15 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento a Giulia Giorgi dell'Hip Hop Cinefest. Alla prossima! Grazie! Il regista Guido Votano sul suo documentario Altri Animali al cinema dal 17 al 19 marzo 2025. Ben trovato. Ciao. Presentaci questo lavoro, cos'è? È una immersione documentaria in 4 mesi di vita di una clinica veterinaria un po' speciale a Oristano in Sardegna. Cos'ha di speciale? Beh, a di speciale intanto che la coppia che la gestisce, Monica Pais e Paolo Briguglio, molto noti sulle reti sociali, sono una coppia da sempre nella vita e nel lavoro, e hanno scelto di dedicare una buona parte del proprio tempo alla cura degli animali di nessuno, cioè dei randagi, degli animali senza portafoglio, quindi cani, gatti, e poi loro si occupano anche di rapaci, lui si è occupato ancora un po' di animali da reddito, insomma c'è un po' un concentrato di tante storie diverse, tanti modi diversi di rapportarsi, insomma, al mondo degli animali, del quale noi, come loro indicano più volte nel film, del quale noi facciamo parte a pieno titolo, noi umani. Come hai conosciuto questa storia e cosa ti è piaciuto? Mi è piaciuto quello che dicevo prima, l'ho conosciuto un po' per caso, perché me li ha presentati un'amica comune, sono andato un po' a ficcanasare, insomma è un lavoro che mi è sempre un po' piaciuto, mi ha sempre un po' incuriosito, e siccome ho chiesto loro se avessero insomma accettato di far seguire la propria attività senza mettere in scena niente, così com'è, in puro stile diciamo osservazionale, e loro dopo qualche titubanza all'inizio, cosa naturalissima, piano piano hanno accettato. Come hai deciso di strutturarlo? I lavori che ho fatto sono sempre un po' costruiti dopo

Film in Class è un progetto che da 12 anni porta il cinema in tante scuole di tutta Italia, allestendo delle vere e proprie sale cinematografiche in quei comuni, in quelle scuole dove la sala non c'è o non c'è mai stata. Da tanti anni, grazie anche al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, raggiungiamo 20.000 studentesse e studenti, e lo facciamo anche attraverso una sala virtuale sul sito di My Movies, che è partner del progetto assieme a Libera, proponendo in questo caso un festival di 3 giorni che serve un po' ad accompagnare le ragazze e i ragazzi alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che Libera organizza ogni anno il 21 marzo. Quest'anno quante scuole e quanti studenti e studentesse? Quest'anno partecipano a Schermo in Classe 22.000 studentesse e studenti di tutta Italia. Davvero sono 18 le regioni, tantissime scuole, dalle primarie alle scuole superiori, e assistiamo ogni anno davvero a un interesse sempre maggiore da parte delle scuole italiane nei confronti della proposta di Schermo in Classe, ma forse anche proprio più in generale di un ritorno al cinema, alla visione, a soprattutto a percepire l'urgenza di dare degli strumenti alle nuove generazioni per poter interpretare le immagini in movimento. Come si strutturano queste 3 giornate? Oltre al 17 e il 19, quest'anno abbiamo aggiunto un'anteprima che sarà il 10 di marzo, lunedì, con la proposta dell'ultimo film di Pasquale Scimeca, Il giudice e il boss. Il 10 marzo è l'anniversario dell'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto. Ci è sembrato interessante proporre un'anteprima che sarà promossa da noi, da Libera, da My Movies e da Repubblica, proprio per cercare di dare ancora più visibilità, ancora più attenzione a questa proposta cinematografica. Dal 17 al 19 ogni giorno saranno disponibili 3 diversi film, cercando di coprire un po' il target di età che va dai 6 ai 18 anni, e saranno disponibili non soltanto per le scuole in realtà, anche per le famiglie, per i genitori, per i ragazzi da casa. In questo caso infatti i film sono disponibili 24 ore e possono essere visti la mattina a scuola accompagnandoli da attività laboratoriali proposte da noi, ma anche in autonomia dalle ragazze e i ragazzi, cercando di costruire, se vuoi, anche un ponte proprio tra la scuola e il mondo esterno. Com'è stata la scelta dei titoli? Come ogni anno, un po' la scelta dei titoli è condivisa tra Cinemoveli, partner del progetto, che come dicevo sono Libera, My Movies e altre realtà che ci accompagnano in questo percorso, e non ultime le insegnanti e gli insegnanti che ogni anno partecipano al tavolo dell'audiovisivo, un momento di formazione annuale che coinvolge più di 100 maestre, maestri, docenti di tutta Italia, cercando di riflettere insieme un po' sulla capacità dei film di avvicinare le ragazze e ragazzi a queste tematiche, ma soprattutto di emozionare, di colpire e di accendere in loro la passione per l'immagine in movimento. Che tipo di interazione c'è con i ragazzi e le ragazze? A me piace ripetere quello che un po' Ettore Scola, che è stato presidente di Cinemovel per tanti anni, ci ha insegnato. Il cinema ha la capacità di sorprendere, i film hanno ancora la capacità di risvegliare le coscienze. E quando spesso si sente dire che le giovani generazioni non vanno al cinema, non sono interessate ai film, non hanno capacità di vedere dei contenuti lunghi, io non mi trovo d'accordo. In questi anni abbiamo raggiunto centinaia di migliaia di studentesse e studenti, e il loro interesse per alcuni film, per un certo tipo di cinema, se è accompagnato, se quindi reso all'interno di un contesto educativo che non si limita alla visione del film, ma dalla visione costruisce un percorso anche laboratoriale di interesse, di dar voce al loro punto di vista, noi riscontriamo ogni anno in realtà un'alta partecipazione, un alto interesse proprio anche da insegnanti, scuole e non ultimi proprio le ragazze e i ragazzi. I riferimenti web per tutti i dettagli? Mi piace segnare 2 siti, il sito di Schermo in Classe, che è www.cinemovel.tv/sic, e la sala virtuale dove sarà possibile per tutte e tutti vedere questi film, che è www.mymovies.it/ondemand/cinemovel. SIC Festival 2025 dal 17 al 19 marzo. Un saluto e un ringraziamento a Enzo Bevar di Cinemovel, uno dei curatori. Alla prossima! Grazie, alla prossima! Con Chiara Manni dell'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese per presentare la 12ª edizione del concorso di cinema documentario DocuD a Pescara, Auditorium Cerulli, La Casa delle Arti, dal 18 marzo al 17 maggio 2025. Ben trovata. Grazie, ben trovato anche a te Federico e a tutti gli ascoltatori. Partiamo dall'associazione, sì. Presentiamola a chi ci ascolta. Sì, brevemente, è un'associazione che è nata nel 2000 e si occupa di promozione cinematografica attraverso le rassegne, i festival, Cineforum, tutto quello che riguarda la promozione cinematografica, appunto. Abbiamo anche un sito www.ebacqua.it e una pagina Facebook. Noi abbiamo iniziato con un festival del documentario che abbiamo portato avanti fino al 2015 e poi da una costola di questo festival è nato DocuD, che facciamo da 12 anni oramai. Come si caratterizza? È una rassegna di cinema del reale che è divisa in un concorso di un panorama italiano di una serie di film documentari tra i migliori usciti nelle ultime due stagioni cinematografiche e poi ci sono 4-5 film fuori concorso tra documentari, mediometraggi e cortometraggi. Quest'anno infatti abbiamo anche 2 cortometraggi fuori concorso. E riguardo al concorso abbiamo 6 documentari, sono film mediometraggi, durano poco più di un'ora e la maggioranza tra i selezionati ci sono molti film che si occupano dell'ambiente in vario modo, però vanno un po' a toccare delle tematiche relative alla natura, all'ambiente, tipo Until the End of the World, che si occupa proprio dell'industria ittica e quindi anche di come viene sfruttato il nostro mare e di tutte le problematiche legate alla pesca più o meno corretta, ecco, che rispetti l'ambiente. E anche Il profumo della terra in un certo senso si occupa di natura, perché parla di questa persona che cambia mestiere e si comincia a dedicare alla ricerca del tartufo e quindi c'è tutto un legame con il bosco, con i cani che appunto servono per la ricerca di questo prezioso bene. Poi Montecorno di Luca Cococcetta è in concorso, ma l'ho uscito per 2 motivi: l'ambiente sicuramente, ma poi Montecorno si occupa di una montagna appunto abruzzese e quindi si possono in questo film ammirare i paesaggi proprio dell'Abruzzo di montagna, che è quello più tipico secondo me, perché di tutti gli Appennini è la parte più importante, le montagne d'Abruzzo sono quelle più caratteristiche. Poi volevo accennare proprio al film fuori concorso, l'evento speciale che dedichiamo nella serata di premiazione e che finirà appunto il sabato 17 maggio. Inizia martedì 18 marzo con Until the End of the World di Francesco De Agostinis. Inauguriamo con questo film in concorso. Invece l'ultimo sarà un evento speciale fuori concorso e lo cito soprattutto perché è un film molto molto particolare, anche di una certa rilevanza, Flora di Martina De Polo, perché ricorda un periodo storico che per noi è fondamentale, quello della Seconda Guerra Mondiale, ma in particolare quello dei partigiani e delle staffette, giovani ragazzi, ma soprattutto questa Flora che era una bambina di 12 anni che fa la staffetta con i partigiani in montagna. Lei va ogni tot giorni a consegnare messaggi a quello che i partigiani appunto aspettavano dai loro compagni, e quindi il periodo della resistenza dove anche i bambini sono stati protagonisti purtroppo. E lei, Flora, ci racconta questa vicenda della sua infanzia e quindi è interessante anche perché vediamo la Flora di oggi che ci parla di un periodo storico che noi non abbiamo vissuto, ma attraverso le sue parole riusciamo un po' a viverlo con lei, perché lei raccontando rivive questa storia. Poi fuori concorso ci sono questi 2 cortometraggi che abbiamo inserito perché sono tutti e due legati al territorio. Noi abbiamo sempre un po' una visione privilegiata del territorio e delle problematiche, soprattutto quelle ambientali che sono un po' in tutto il mondo, quindi anche qui ovviamente. E quindi abbiamo questo cortometraggio, Il Fratino, che affronta il problema della biodiversità, ma è un piccolo cortometraggio docu-fiction legato però a due ragazzi che recitano, provocano un po' la tematica del cortometraggio, che è appunto questo uccello che si trova nelle coste dell'Adriatico e che è una specie protetta e quindi un po' cerca il cortometraggio di sensibilizzare le persone all'attenzione delle specie protette. E l'altro invece, Il Fratino, è di Michael Stenzian e Francesco Verrocchio. L'altro cortometraggio è Il Serparo di Alessio Consorte. Il Serparo ricorda questa pratica che è diventata poi una cerimonia che ogni anno si ripete a Cocullo, dove vengono celebrati i serpenti e quindi le persone, anche i bambini, vanno in giro con questi serpenti e si riallaccia a una tradizione popolare che il serpente appunto proteggeva. Quindi abbiamo ripreso questo cortometraggio proprio per far conoscere questa antica tradizione, questa festività che ogni anno, credo in estate, si ripete in questo paesino abruzzese che si chiama Cocullo. Che cadenza avranno gli appuntamenti? Sarà sì, una singola proiezione e saranno accompagnate da autori ed autrici? Abbiamo a marzo martedì 18 e giovedì 27, ad aprile giovedì 3, martedì 8 e giovedì 17 e 24, mentre a maggio abbiamo il giovedì 8 e poi il 17, come ho detto, la premiazione con l'evento speciale. Ogni proiezione poi a seguire ci sarà un intervento del regista, di solito noi abbiamo tutti i registi in sala e ci sarà sempre questo incontro tra il regista e il pubblico. Questi ultimi anni abbiamo visto un grande interesse per il cinema del Reale e in genere è una proiezione a sera, tranne quando ci saranno i cortometraggi, perché li abbiamo abbinati alle due proiezioni del concorso, 3 aprile e il giovedì a marzo, il 27, ci sarà il concorso con abbinato il cortometraggio Il Serparo fuori concorso. 12ª edizione del concorso di cinema documentario DocuD a Pescara, Auditorium Cerulli, La Casa delle Arti, dal 18 marzo al 17 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Manni dell'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese. Alla prossima! Alla prossima, grazie mille Federico, un saluto a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.